puoi confrontarlo con una maratona, ad esempio. Una persona ha raggiunto il traguardo e ci sono altri che stanno ancora correndo, imparando la Kabbalah. Tu sei colui che arriverà prima al traguardo di altri. E per di più, tutta la sofferenza esistente non devi attraversarla. Non è necessariamente per te attraversare la sofferenza. Camminerai davanti al male o, in altre parole, il male camminerà dietro di te. Sei un capo, occupandoti prima con la Kabbalah, ma ovviamente costerà tempo e fatica, sforzo per fare delle scelte. Cosa dovrei fare? Dove do lezioni di fronte c'è un bar crea? E naturalmente c'è molto piacere. Ma devi scarificare qualcosa. Sacrifichi qualcosa per qualcosa di molto meglio. In altre parole, aspetti qualcosa di meglio. Ma è possibile per noi sondare le proprie intenzioni? Vale a dire, possiamo sondare le nostre intenzioni considerando lo spirituale. È possibile sondare il mio apprendimento nella Kabbalah per raggiungere l'obiettivo del creatore. E quindi anche l'obiettivo della creazione. È possibile? Permettetemi di darvi un esempio. Per esempio, ci sono due persone e una di loro vuole dare un prestito all'altra. Vede che l'altra persona ha bisogno di soldi e vuole prestare all'altro il denaro, ma non è in grado di fornire una sicurezza sufficiente. Quindi devo prestargli i soldi in totale fiducia. Posso dire: ok, lui è mio amico e io lo amo. Ho fiducia in lui. E sono molto contento di dargli 10 sterline, euro. Ora possiamo dire che la sua fiducia è degna di 10 sterline, 10 euro. Ma ad esempio, io gli presto un centinaio di dollari o euro. Tanto grande è la mia fiducia in lui. Ma c'è anche una terza opzione in cui dico: ho tanta fiducia in lui, gli do metà della mia proprietà, il che significa che ha una grande fiducia. Quanto è grande la tua fiducia? Supponiamo che non possa darti nulla. È anche possibile. Oh, questa possibilità non viene in mente. Supponiamo che non possa restituire i soldi e nonostante tu sia disposto a farlo, a dargli la metà della tua proprietà. Qui, nell'ultimo esempio, vediamo che l'amore è molto più grande e la sua fiducia è molto più grande di quella che vuole dare il suo amico solo 10 sterline. Ma esiste un'altra forma di fiducia, una fiducia del 100%, in base alla quale qualcuno è pronto a dare tutto quello che ha senza sapere se l'altro potrebbe restituirlo. Questo è un esempio di completa fiducia e di profonda fede. E attraverso questi esempi noi possiamo sondare noi stessi e vedere quanto sono profonde e vere le mie intenzioni. Cosa dovresti fare se dovessi vincere la lotteria? E diciamo che vinci un importo di 10 milioni di euro. Quale sarebbe il primo pensiero nella tua mente? Non pensarci. Immediatamente devi sapere come dovresti spendere i soldi. Questo è un modo per prendere coscienza delle nostre vere intenzioni che abbiamo riguardo al Creatore. Sostituisci i nomi dell'esempio in te e il Creatore. Sono pronto a dare me stesso completamente al Creatore. Devi sapere che è esattamente lo stesso. E la mia fede vale 10 sterline? Non i soldi materiali, ma nei desideri di forza e con le cose di chi penso di essere. Sono preparato a dare da me stesso? Significa di porre me stesso tanto per fare un embrione nel grembo materno, nel grembo del Supremo, con una fiducia così grande, naturalmente dall'interno, niente dall'esterno. Sono disposto a sacrificare tutti i desideri che ho dall'interno con tutta la forza che ho. Quanto tempo voglio investire nella Kabbalah e nel Creatore? Non l'investimento del nostro mondo materiale, ma dal dentro. E con questa alleanza interiore si può sentire il legame che ho con tutti intorno a me. Questo è un modo per sondare te stesso costantemente. Diventa consapevole di ciò che ti circonda. Dall'esterno cercano di consigliare cosa devi fare se dici che non ho molto tempo per la cabala o mi è costato un sacco di soldi. Prendi coscienza che stai dando loro l'opportunità di reagire. Poi lasci che gli altri prescrivono il tuo destino. Ad esempio, la società, tua moglie, i tuoi figli e chi c'è nel tuo ambiente. E per di più inizia a cercare di giustificarti dicendo: non ho avuto abbastanza tempo, ma la prossima settimana potrò liberarmi. Mai, e voglio dire davvero, non lasciare mai agli altri che ti influenzano dall'esterno. È la tua vita. Sei tu a decidere come e quanto tempo passerai nello spirituale, perché, poiché questo è tutto su di te, stiamo solo parlando di te, e attraverso questo vieni passo dopo passo più vicino a te stesso. Così ora gli altri non possono dirti cosa fare o non fare. Hai il tuo destino nelle tue mani. Naturalmente puoi imparare tutto il giorno la Torah, ma una buona mezz'ora è anche buona. Devi sapere che ci sono due elementi molto importanti in questo studio. E con lo studio intendiamo lo studio per lo spirituale, o in altre parole, le tue intenzioni per alto. E come ho detto, ci sono due elementi. O componenti, quantità e qualità. La quantità è quanto tempo posso spendere durante una settimana in spirituale, e la qualità è l'intensità. Sai, ci può essere una persona che sta imparando tutto il giorno e può esserci qualcuno che ha solo la possibilità di passare solo mezz'ora, una volta alla settimana. Deve lavorare per vivere. Deve fare quello che deve fare. Può essere che non è così intelligente in questa vita e deve lavorare duro per guadagnarsi da vivere. Può essere che non usi i suoi gomiti e ha bisogno di 12 ore al giorno da fare una vita decente. Una persona del genere può spendere solo 15 minuti o meno al giorno, o può essere a settimana, ma impara. Vedi, se lo fa con intensità così grande, lui può ottenere tanto quanto l'altra persona che sta imparando 8 ore al giorno. E dall'alto vedono tutto, vedono entrambe le persone, anche colui che ha trascorso solo 10 minuti. I suoi 10 minuti possono produrre più attività di colui che sta studiando 8 ore per giorno. È diverso nella spirituale. Si può sedere nella sinagoga trascorrendo ore di studio e l'unica cosa che fa è logorarsi i pantaloni. Non c'è misura nello spirituale. Una breve storia. All'inizio del XX secolo ci fu un grande rabbino saggio in Israele, Rabbi Cook. Era il primo rabbino della terra di Israele. E tu sai che chi è il primo è sempre molto bravo. È lo stesso nel nostro mondo, in mondo materiale. Il padre inizia una fabbrica e lavora con il cuore e l'anima. E poi il figlio ha una vita facile. Ma riguardo al rabbino Cook, era davvero un grande uomo e una volta arrivò alla sinagoga di Gerusalemme e devi sapere, era il più grande della sua generazione. Ma in Gerusalemme c'erano anche grandi rabbini che sapevano molto, che avevano una grande statura, forza e onore. Le hanno mostrato la grande sinagoga e naturalmente il migliore dei loro studenti. Lui stringe la mano a loro, ma c'era una persona piccola e minuta che non li hanno mostrato. Ma il rabbino Cook vide questa persona seduta in uno degli angoli della sinagoga e si avvicinò a lui e qualcos'altro fece di più. Fece un profondo inchino per questa piccola persona. E tutti i grandi rabbi erano intorno a lui e il portavoce disse a Rabbi Cook: questa persona è allitterata, non sa leggere, ma guarda nel Talmud, ma è di gran lunga di una scienza. Non è vero? Sbaglio. Ma il rabbino Cook rispose loro: anche se la natura gli ha dato un po', lui lo usa per il massimo. Anche quando la natura ti ha dato un po', o hai ricevuto un po' dal Creatore, usalo con il massimo sforzo che hai in te. Ed è per questo che Rabbi Cook si è inchinato per questa persona, perché da su loro guardano diversamente noi Il Creatore guarda con altri occhi noi persone che stiamo vivendo qui nel mondo materiale. Guardiamo qualcuno e lo giudichiamo da quanti libri ha scritto o quanti congressi ha frequentato. Ma non così dall'alto. L'unica cosa che vedono dall'alto è l'intenzione. Kavanah, è l'ebraico. Non la forza, non la quantità, ma l'intensità è importante. La Kabbalah è di qualità. E non le ore che passi durante un giorno sono importanti. Attraverso l'intensità che riceverai l'alta luce, è tutto su come lavori. Ad esempio, una persona può avere per natura il potenziale, forza per ricevere 10.000 unità di luce, o ha il potenziale per effettuare la correzione in modo tale che sia in grado di ricevere 10.000 unità di luce. È il piccolo uomo minuscolo nella nostra storia, è dato dalla natura per ricevere centinaia di queste unità di luce. E questo grande scrive libri e fa molto per l'umanità, e ora vince il premio Nobel o qualsiasi altra cosa. Tutti lo conoscono. È un esempio per l'umanità. E in un certo modo lo è. E solo la moglie conosce l'uomo piccolo. Questo è il modo in cui guardiamo le persone. Ma dall'alto sembrano diversi, guardano la tua vera condizione, nel profondo. Qualunque cosa nel nostro mondo è mantenere l'aspetto, e per di più tutto lo apprezzano, ma sono tutte apparenze. L'ometto piccolo, in verità, ha fatto correzioni in se stesso e ha usato la sua forza e capacità di ciò che la natura le ha dato. L'ometto piccolo negli angoli della sinagoga usava l'80% di ciò che sa. Quindi, chi aveva fatto di più? Chi aveva fatto di più agli occhi del Creatore? Ognuno di noi riceve dall'alto la forza del dare, ma dobbiamo fare un cambiamento. E chi pensi che abbia fatto il più grande cambiamento? In effetti, l'ometto piccolo. Ecco perché il rabbino Ruckuk era una persona così eccezionale. Aveva la capacità di rendersi molto piccolo dall'interno. Così ora era capace di vedere ciò che gli altri non potevano vedere. Vide che quell'uomo minuscolo era molto più grande di quello che era seduto in prima fila. Divertiva enormemente perché loro si sentivano così bene. Ci sono persone che possono dare solo poche monete ai poveri e ci sono persone che possono dare migliaia di euro. Ma il Creatore non se ne accorge. O le altre cose che facciamo per le altre persone. Certo, è bello essere generosi per gli altri. Ma la loro intenzione è tutto riguardo alla forza. Quanto forza posso dare da me stesso? O quanti libri ho scritto per essere visto come un genio? O guardare qui quanti soldi ho donato ai poveri? Guardami. Quanto sono generoso! Ma in realtà, e la sua intenzione deve solo essere vista, essere onorato. E poi vediamo l'ometto piccolo. Lui è colui che ha la vittoria. Se vogliamo veramente avere una piccola comprensione della Kabbalah, è essenziale eliminare il nostro intelletto, non fare mai confronti. Non parliamo di questo mondo, sebbene usiamo parole di questo mondo. Tutto ciò che è fuori di me, fuori di te, non ha nulla a che fare con la Kabbalah. Tutto ciò che vedi è, con l'uso delle tue cinque frasi. Ma nella Kabbalah noi parliamo al tuo essere interiore. Le nostre parole sono scintille divinatori che provengono dal mondo spirituale. Cos'è un ebreo? Un ebreo è l'essere interiore dentro di te, in ognuno di noi. E nelle Kabbalah impariamo come venire d'accordo con le sue qualità, quindi usiamo il nostro interno. Se vuoi sperimentare lo spirituale, devi venire d'accordo con le leggi dell'universo. Solo allora puoi avere una comprensione di quale spiritualità si intende. E siamo fatti in modo che ognuno di noi possa arrivare alla totalità, qui sulla terra e non nell'aldilà. Questo è solo un pensiero infantile. Ci sono leggi ebraiche, ma si riferiscono all'essere interiore. Queste leggi ebraiche sono le leggi dell'universo, dato a noi per mezzo di Mosè. E nella Kabbalah impareremo a conoscere queste leggi. La vera spiritualità impara a conoscere queste leggi. Le leggi dell'universo e come venire d'accordo con loro, d'accordo sulla qualità. Essere ebreo significa nella Kabbalah essere una parte interiore dell'umanità. L'interpretazione della parola ebreo significa integrità. Essere uno con il Creatore. È del tutto inaccettabile dare la tua attenzione all'aspetto esteriore. Stiamo iniziando con lo sforzo per lo spirituale. Siamo la prima generazione a fare così. Ora i tempi sono maturi per le nostre anime. Le nostre anime sono pronte per venire alla realizzazione. La Kabbalah non è high, non è hip. Tutto è nuovo e tutto è invecchiato. Ma per noi è nuovo. Tutto ciò che esiste può presentarsi nei seguenti aspetti. Interno, esterno. Più alto significa più vicino alla luce. Più basso, che significa oscurità. La struttura interna dell'essere umano. Il nostro punto di partenza è un punto. Nel profondo di noi abbiamo questo punto che diamo il nome di Ein Sof. Ein Sof significa la luce infinita. Questa luce infinita giace nel profondo di noi e brilla da questo punto. Questa luce che brilla dal più profondo dei più profondi si chiama Ein Sof. Non è mio, ma brilla in me. Possiamo nominare questo God. Ma preferiamo dire Dio, yeah? Dio, God, ma preferiamo dire la qualità, l'assoluto altruismo che è riversato nell'universo. Da dentro questa luce, Ein Sof, brilla. La luce senza fine. Più vengo in questo centro, più in alto, più la luce splende. Ma quando vado oltre, lontano da sé, da esso, più all'esterno, più scuro sarà. Puoi confrontarlo con una lampada. È il paralume. Ai più paralumi mettiamo attorno alla luce, la diffusione della luce sarà ad un certo punto che la luce non si vedrà affatto, ma la luce è ancora lì. In ognuno di noi questa luce è lì. Ciò che conta è lo sviluppo di una persona, fino a che punto o quanto può sperimentare questa luce. La Kabbalah è l'insegnamento delle correzioni. Attraverso le tue correzioni puoi avvicinarti alla luce. E la Kabbalah ci aiuta a sviluppare la nostra consapevolezza. Si tratta di consapevolezza, mia consapevolezza, non cosa o chi sono in questo mondo materiale, ma solo quello che posso sperimentare dal mio interiore. La Kabbalah è lo studio del nostro interiore. Questo è ciò che stiamo imparando. L'essere interiore circonda l'Ein Sof. E intorno a questo strato vediamo un nuovo livello. Lo chiamiamo questo strato la zona neutra, o in altre parole la zona del bene e del male. Questa è la zona che una persona può sentire, o il bene o il male. Quindi il livello successivo è lo strato dell'essere esterno, e con questo non intendiamo la persona fisica, fatta di carne e sangue, ma le sue osservazioni esterne. Nella parte dell'essere esterno c'è la parte interna delle percezioni esterne. Abbiamo chiamato questo la storia. In questa storia vediamo le storie dei nostri valori, tutte le religioni, la procreazione, la cultura, eccetera. Eccetera, eccetera, quello che stiamo facendo e penetrare questi livelli per venire alla vera realtà. E devi imparare questo e lavorare sodo. Non è un regalo, o non è un regalo. Dall'esterno di nuovo vediamo la luce, ma ora nella qualità della natura. Questo circonda la luce, ma ci circonda solo dall'esterno, non al di fuori della nostra pelle. Ma sentiamo la reazione esterna della luce. Ora possiamo fare il seguente piano. Ein Sof, l'essere interiore. La zona neutra, l'essere esterno, la parte interna dell'essere esterno, la storia, la luce dall'esterno. Questi sono gli strati che circondano il nostro essere. Quello che viviamo è la storia, il bene e il male. Non sono ancora tuoi, ma ci viene attraverso la storia, la religione, la società, eccetera. Devi penetrare negli strati più profondi, finché non arrivi al punto in cui trovi la vera zona neutrale. La zona in cui puoi sperimentare in verità il bene e il male che è dentro di te. In un certo senso sei tu che devi essere la preghiera, in altre parole, in totale abbandono del tuo essere. Perché? Perché? È l'insegnamento del creatore stesso. Sai, dall'esterno siamo tutti uguali, solo l'interiore è lo spirituale, è individuale. La zona della storia non ci porta alla vera esperienza del bene e del male. dobbiamo andare oltre. Vedi in questo modo, finché un bambino è un bambino, accettiamo il suo comportamento. Lui è ancora in via di sviluppo. In un certo senso, un bambino è molto primitivo. Ma ci sono persone che hanno 60 o possono avere 70 anni. E sono ancora bambini molto primitivi. Dobbiamo andare più a fondo, più avanti nel nostro sviluppo, e la Cabala ci porta più in profondità. Perché sei qui? Perché già senti che devi andare più a fondo. Dov'è il mio vero io? La luce non è mia, è uno splendore sperimentato da noi. Nella luce non c'è esistenza della carne, la luce penetra tutto in un modo che non ha importanza per la luce spirituale. L'essere interiore è arrivato così vicino alla luce che non esiste più, ma la zona neutra tra la luce interiore e la luce esterna, in mezzo ci sono io con tutta la diversità, ma dobbiamo avvicinarci il più possibile alla luce interiore per sperimentare il vero io. Un'esperienza nella più pura serenità, per lasciare che la luce risplenda sul mio vero io. E con tutto il tuo intelletto non puoi venire lì. Devi ascoltare con il tuo essere interiore. L'essere interiore è appoggiato alla luce. Questo è il punto in cui l'esperienza è del bene assoluto. E più ti allontani dalla luce, dalla luce interiore, quando vieni all'esterno, tu sperimenti il male assoluto. Non uccidere è assolutamente una legge spirituale. È la legge dell'universo. Quando ignori questa legge, ti oscuri a modo tuo. Certo è il male assoluto, ma questo non cambia la legge dell'universo. L'universo rimane buono. Devi venire all'esperienza del tuo bene in te e non nello strato della storia, della religione. Quello è ancora nell'esterno. Con la tua consapevolezza devi entrare. Perché dall'interno sei un pezzo di sentimento. Devi sapere che uno è chiamato umano solo quando è arrivato a questo punto. L'essere esteriore è la storia, l'attribuzione animale. E ovviamente c'è anche il bello. Ma non è te, è il bene nel male. Ma rimane l'esterno. Quando uno è ancora nella storia d'amore, nella storia l'amore non è possibile. Solo dall'interno possiamo parlare d'amore. Ciò che ami è la storia perché ci è stata raccontata ma a te mancano gli organi sensibili, devi saperlo dall'interno. Dall'interno c'è ancora il male. Affinché si rimane nell'esterno, desidera una ricompensa, il minuscolo che può vedere è ancora una fase del male. Ma ora vediamo una nuova generazione che è sveglia. E la Kabbalah è lì più sollevare, è lì, è la Kabbalah. E la Kabbalah è lì per sollevare queste persone a un livello superiore, a un essere superiore. E l'essere esteriore non può mai venire a questo adempimento. Un ebreo è colui che è venuto nel suo interiore. E poi è in piedi vicino al Signore. Il Signore è accanto a questa persona. Ricorda che parlo solo al tuo essere interiore. Non ascoltare con il tuo intelletto. L'intelletto prevale e per di più blocca la tua strada per venire nell'interno. Il male è nell'osservazione. Sappi che dentro tutto è buono. Abbiamo una scelta libera lì? Assolutamente no. Devi penetrare te stesso e venire al livello più profondo dentro te stesso. La scelta è un'illusione, un ritardo. La Kabbalah ci insegna come entrare in contatto con noi stessi per mezzo dell'amore. Solo attraverso le correzioni che ho da fare posso venire al lato che è chiamato il bene in me. E quando sono venuto al mio essere interiore, poi c'è il prossimo passo che si fonde con il Creatore, per entrare in unità con il Creatore. Due estremi che il Creatore ha creato, il bene e il male. È solo imparando un lato, è solo imparando un lato possiamo arrivare al riconoscimento dell'altro lato. In altre parole, solo quando io riconosco il male che posso arrivare al suo contrario, il bene. Tutti coloro che frequentano questo corso è perché vuole lavorare su se stesso. Il punto di partenza per il bene è il momento in cui sono pronto a rinunciare a qualcosa di me stesso. Quando si parla dell'Egitto, non parliamo della terra dell'Egitto, ma stiamo parlando dell'essere esterno. Una persona arriva ai confini del bene e del male, ma lui deve andare oltre, devi venire nella tua area del tuo bene e del male. Noi chiamiamo questo il punto nel cuore, e allora possiamo andare oltre verso l'interno. Il vero essere è nella zona neutrale. Questo è il punto che deve raggiungere perché questa è la mia area di lavoro. Il vero essere interiore si dissolve nella luce. Le 10 sfirot. Emanazioni. Sfira, singolare, significa emanazione della luce. Ci sono 10 emanazioni, o in altre parole 10 sfirot, in plurale. Questo è il linguaggio del sentimento. Così l'essere interiore può crescere. Come può l'interno crescere stimolando il bene e il male? Così ora puoi reagire e correggere. Correzione significa guardare te stesso, andare dentro. È della più profonda disperazione che io do alla Kabbalah. Non è possibile dare lezioni di Kabbalah con l'intelletto, solo dal lato dei sentimenti. Ma l'intelletto resiste. Le forze esterne sono così forti. Tutta la resistenza viene da questo punto. Quindi è scritto: mi hai salvato dal potere dei più forti. Il male è forte, è il bene è debole. Qui vediamo la difficoltà. Il più debole deve vincere il più forte. Ma sappi che alla fine il debole vincerà. Alla fine la buona volontà vincerà sempre. In questo vediamo una legge universale del Creatore. Lo scopo della Kabbalah è di risvegliare la sensazione, il sentimento spirituale, per cui venire a compimento. Nel Santo Zohar, i 5 libri dell'Antico Testamento, Tanakh, la scrittura parla sulle leggi dell'universo. Non si parla mai del nostro mondo, il mondo materiale. Ogni essere nato in questo mondo è come l'essere esterno, nel senso che vive con i suoi 5 sensi. Questa è la prima fase dell'uomo, l'essere esterno. Nella seconda fase, una persona sperimenta il punto nel suo cuore. Ma non intendiamo il cuore fisico, ma il centro epocale della sua consapevolezza. Il punto nel cuore è la nascita dell'essere umano. Non parliamo dell'essere materiale che chiamiamo il due piedi, è l'essere parlante che vive solo secondo i suoi 5 sensi. Questa persona non sa nulla e non sente nulla. Ciò che sente è l'essere esterno, e lui non può vedere l'essere umano perché non è consapevole di sé come essere umano. Solo quando una persona inizia la ricerca per chi è egli realmente, allora c'è l'inizio del vero essere umano. Il punto nel cuore riflette l'inizio di questa ricerca. Non puoi comprarlo o svegliarlo. Esso viene da sopra. E questa è una legge universale. Quando una persona arriva alle lezioni di Kabbalah. Quando una persona arriva alle lezioni di Kabbalah, questo punto è già lì. Finché una persona è ancora nella prima fase, non può fare nulla. In un certo senso, questa persona non esiste. Ma ricorda, agli occhi del Creatore, tutti sono buoni, perfetti, interi. Il loro sviluppo non è ancora pronto, ma per la luce loro sono tutti buoni. Non vedono la luce. Tutto il male che fanno è a loro stessi. Per la luce tutto è visibile. È l'uomo da se stesso che non vede la luce. Si prega di notare che nessuna religione può darvi il meccanismo per la correzione. Sei tu che devi pensare al compimento della tua vita. Ogni minuto del tuo tempo. Il vero dare è possibile solo dall'essere interiore. Hai l'amore nel tuo essere interiore? Ma cosa stiamo facendo? Lo trascuriamo o, peggio ancora, odiamo il nostro essere interiore? C'è così tanto da parlare riguardo alla parola peccato. E questo è un peccato, di dare dal tuo essere egoistico. Non è la realtà, né è la verità. Devi imparare a dare dal tuo essere interiore. Solo allora puoi dare a un'altra persona. Tutto ciò che dai dal tuo essere esterno è un peccato. Solo l'essere interiore può dare in un modo altruista assoluto. Questo deve essere il nostro obiettivo per crescere. Crescere per venire al tuo proprio adempimento. Solo allora puoi dare. Lo sviluppo dell'essere esterno inizia con la ricerca di cibo e bevande, poi cerca per la ricchezza e poi per il potere e infine cerca tutta la saggezza nella scienza. Ma tutti questi aspetti sono connessi con l'essere esterno. Ogni cosa è illusione, il male assoluto dall'angolo della verità. Solo quando si arriva al punto della delusione più profonda, il momento in cui niente può soddisfare il suo desiderio, quindi il punto nel cuore diventa visibile, tangibile. E questo punto della delusione più profonda viene dall'alto. È dato dall'alto, così ora può iniziare la ricerca della luce. E questa persona è pronta per la Kabbalah.